I colori dell'anima, ogni lunedì sera alle 21 su Radio Alma. Buonasera cari amici radioascoltatori, bentornati ad una nuova puntata di I colori dell'anima su Radio Alma 101.9. E stasera sono qui in studio con voi con la mia co-presentatrice Donatella, che per adesso ha un piccolo problemino di audio. Vediamo. Ci sei, Donatella? Sì, buonasera a tutti. Ecco, come ho detto, siamo tornati in studio. Fuori ci sono più di 30 gradi, credo. Qui ci sono più di 40 con tutti i macchinari. Anche lo studio si scalda bene. Anche l'argomento che affronteremo oggi è caldo. Molto caldo, si intona esatto. Perfettamente con il clima della giornata. E dici un po', Donatella, qual è il colore, per cominciare, qual è il colore di questa puntata? Il colore in realtà non è così caldo, perché è un tono che dà più sul freddo. Infatti il colore della nostra puntata di questa sera è viola, un viola molto scuro, perché in qualche modo ci fa riflettere su quello che è un tema di attualità e un tema molto particolare di questi giorni, è il tema del lavoro e della precarietà. Esatto, e per insomma, passare subito alla notizia importante, non siamo soli ad affrontare questo argomento e magari Donatella vuoi presentarci tu sì. E il nostro ospite di stasera. Ci facciamo spalleggiare da qualcuno che di lavoro ne sa molto, di precarietà anche. Buonasera, sono Vittorio Campanelli. Buonasera Vittorio. Sono un vecchio emigrato in Belgio, sono qui da circa 40 anni e di conseguenza potete immaginare anche che ho molti capelli bianchi. Ragione di questa mia presenza questa sera è proprio il tema, esatto. Il tema dell'occupazione sui giovani è il contesto che crea precariato, disoccupazione, eccetera. Esatto, e il motivo per cui affrontiamo questa puntata proprio oggi, diciamo che in Europa, ma nel mondo in generale, ci sono parecchi avvenimenti, insomma abbiamo recentemente avuto gli indignados in Spagna che si sono bivaccati al Puerta del Sol, una delle piazze principali di Madrid, per protestare insomma contro le difficoltà che incontrano. Sappiamo ovviamente il momento difficile che vive la Grecia, ma anche in Italia. Ma anche dall'Italia vengono segnali positivi, perché l'indignados, vabbè, la parola dice un po' critica, no? Però in realtà sono segni di superamento della, almeno voglia, volontà, esatto. Di superamento. Ma quello che è importante è che, diciamo, collega i tre paesi e forse anche fuori da questi tre paesi è la presenza, il risveglio dei giovani. C'è una risveglia delle anime in qualche modo. Il risveglio dei giovani che finalmente escono dal, diciamo, un po' dal letargo. È vero che noi ce li abbiamo confinati, ma finalmente prendono in mano il loro destino, così sembra, sia per quanto riguarda l'Italia, sia nelle manifestazioni. La prima manifestazione è avvenuta alle donne, non dimentichiamolo, se non oggi, sì. Quando? Vi ricordate quella famosa 1 milione di donne in piazza, esatto. auto-organizzate. E poi con le elezioni amministrative, con il referendum, si vede che i giovani hanno una visione, hanno una speranza. Esatto. Ma questo significa che in qualche modo i giovani si sono resi conto che abbiamo toccato il fondo e che quindi c'è proprio bisogno di fare gruppo e guardare al futuro insieme, muoversi. Quando la politica è generica e ideologica, i giovani sono rimasti fermi. Quando si sono poste le domande concrete, hanno scelto. Che non ci hanno risposte. E hanno fatto pesare la loro scelta, sì. Questo è importante. E forse dobbiamo anche ricordare che i giovani hanno dei buoni motivi, se pensiamo o se guardiamo solo un attimo al lavoro. Gli inglesi hanno inventato un bel termine, NEET, che vuol dire Not in Education, Employment or Training, ossia insomma persone che non lavorano, cercano un impiego o studiano. Insomma, questi NEET in Italia al momento sono vicino al 30%, diciamo quasi un giovane su tre è in questa condizione, insomma obiettivamente una situazione di grande difficoltà, ma magari non è solo il lavoro, è un contesto insomma più vasto, non credi? Vittorio? Le statistiche non dicono il vero, perché le statistiche si sono piegate alla politica. E la definizione di occupato, non occupato, precario è stata rimodellata ogni volta che c'era una crisi o non si capiva come fare, via di seguito. Per cui quel 30% probabilmente è molto di più. Bisogna pensare a tutti questi ragazzi che continuano, insomma, si iscrivono all'università perché non sanno cosa fare d'altro e quindi escono dalle statistiche. Oppure quelli che escono dalle statistiche perché hanno un mese di precariato da qualche parte, due mesi, tre mesi, escono dalle statistiche. Oppure escono dalle statistiche quelli che non cercano più perché sono disamorati o non ci credono più e vivacchiano. Quindi voglio dire, le statistiche, il fenomeno va ben al di là delle statistiche, bene al di là di quello ufficiale. Esatto. E infatti appunto direi che sicuramente appunto la riflessione sul precariato è divenuta sempre più ampia negli ultimi anni, e questo si può dire si lega anche in qualche modo al tipo di lavoro. Non so, forse possiamo appunto cominciare facendo una riflessione su quello che è il lavoro, la definizione, che cos'è per noi nella società di oggi il lavoro. Ecco, magari posso cominciare io con una definizione abbastanza generica, poi magari ascoltiamo te Vittorio e che cosa hai da aggiungere o forse correggere, perché alla fine credo che il termine lavoro, che viene dal latino labor, con il significato di fatica, e ovviamente il lavoro credo che tutti che hanno nella loro vita lavorato, che sì, qualche volta il lavoro può essere una fatica, comunque viene definito come un'attività produttiva esplicata con l'esercizio di un mestiere, una professione e simili, e ha come scopo la soddisfazione dei bisogni individuali e collettivi. Lavorare significa occupare il tempo nel fare qualcosa, traendone un vantaggio generalmente economico. Fin qui tutti d'accordo? Posso? Ma certo. Posso rompere lo schema? Esatto. Cominciamo subito. Credo che Radio Alma sia un'antenna, diciamo, che naviga nell'area dei credenti, dei cristiani. È una radio libera di tutte le... Una radio libera, d'accordo, ma insomma fatta anche di gente che ci crede. Certo. Ecco, allora, io credo, cioè sono un praticante, insomma a modo mio, ma insomma sono un praticante. Il lavoro, nell'ottica cristiana, sai, diciamo che gli italiani nascono cristiani, quindi anche quelli che in qualche modo sono un po' in disputa, in realtà poi ce l'hanno un fondo. Il lavoro è la continuazione della creazione, questo è il concetto grande. Poi siamo cittadini, allora guardiamo la Costituzione, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Esatto. Cioè il lavoro non è solo un'attività remunerata, è un'attività creativa, è l'attività che crea ricchezza. Io, scusate, sono vecchio, ma solo ultimamente mi è rimasta impressa questa informazione da un grande economista. Il prodotto, la ricchezza prodotta dal lavoro, solo un terzo rientra come salario al lavoratore, il secondo terzo va al capitale e il terzo terzo dovrebbe essere per la remunerazione dello Stato. E quindi voglio dire, il lavoro è veramente al centro dell'economia. Sì. Va bene? Ok, sì. Questa in parole povere. Va al centro dell'economia, ma in qualche modo appunto al di là, verso quelli che sono i bisogni collettivi. E anche individuali. Come si regge una famiglia senza il lavoro? Senza, ma non è, e poi il lavoro conta come... come contratto, come continuità, come prospettiva. Cioè il lavoratore non è che può essere soddisfatto se lavora oggi, deve essere sicuro che lavora l'anno prossimo e fra 10 anni, perché se gli si toglie questa certezza entra in panico, perché c'è un figlio da crescere o magari più di un figlio, c'è un mutuo da pagare per una casa che è un investimento su 15-20 anni eccetera. Sì. Direi che prima di guardare un po' indietro di come era il mondo del lavoro e come è cambiato e come è diventata, come la vediamo oggi, direi che andiamo un attimo a ascoltare un bellissimo brano di uno che di problemi sociali se ne intendeva, comunque se ne occupava, il grande Rino Gaetano, con una canzone su un'azienda italiana che tutti conosciamo, e l'ascoltiamo insieme. E rieccoci in studio, buonasera a tutti, stiamo ascoltando I Colori dell'Anima. Questa sera in studio con noi c'è Wulan alla regia. Ciao Wulan. Ciao. E un ospite molto speciale, Vittorio. Buonasera. Buonasera, che ci aiuta a scavare in questo interessantissimo argomento che è appunto il lavoro e la precarietà. E infatti proprio parlando di lavoro ci hanno accompagnato ora le note del famosissimo Rino Gaetano, l'operaio della Fiat. E per riprendere un po' appunto il discorso che facevamo prima, l'operaio in qualche modo si lega a quest'idea di famiglia, di lavoro, di persona giovane che in qualche modo entra in un percorso formativo, lavorativo e ne fa in qualche modo un percorso di vita proprio. Abbiamo in qualche modo l'idea invece che negli ultimi anni questo processo, questo cammino in qualche modo di vita che si accompagnava ad un cammino anche di lavoro si stia perdendo e si vada sempre di più verso un lavoro inteso come un'attività in qualche modo di corto termine. Si può dire così, Vittorio? Farei una distinzione fra varie realtà. In Italia si va in questa direzione che diciamo questo giro di boa, Giovanni Sartori l'ha definita come liberismo, che non ha niente a che vedere con il liberalismo. Il liberalismo è una sana dottrina con un'altissima etica. Il liberismo è individualismo puro. Allora, se andiamo per esempio nella società giapponese, l'operaio fa parte della famiglia, il datore di lavoro lo considera membro della famiglia. Se l'azienda ha un problema, l'operaio si impegna personalmente. Ok, quindi il destino dell'operaio è legato al destino dell'azienda. E una forte solidarietà esiste ancora, per esempio, in modelli come il modello renano in Germania. Esatto. Allora, cioè è basato su un'etica protestante, ma insomma è basato su una coscienza che se l'operaio è soddisfatto rende anche di più. Uh-huh. E se l'azienda stessa ha bisogno di prospettiva a lungo termine, e quindi il fattore lavoro, che è un fattore essenziale nell'azienda, nell'impresa, deve essere anch'esso capace di dare una garanzia di lungo termine, quindi è un contratto mutuo di win-win, come si dice. Uh-huh. Entrambi si impegnano in una prospettiva di lungo periodo. Esatto, l'impresa si impegna a dargli il posto di lavoro e l'operaio si impegna ad assicurargli la sua forza di lavoro, che poi non è forza di lavoro, è creatività, è capitale, sì, umano. E in Italia questa situazione, questo modello si è mai avuto? Invece in Italia questo discorso, no, purtroppo no. Fin nell'ambito, dunque, finché le cose andavano bene, più o meno, c'era un ritorno ad ambedue le parti, ma non appena si è avvenuta le crisi, no? Uh-huh. Perché poi le crisi sono ripetitive, sono continue, sono strutturali. Cicliche. Esatto, ci sono delle teorie che dicono che la crisi è necessaria. Sì. C'è un grandissimo economista, Schumpeter, che dice la capacità distruttiva creativa. distruggere per creare. Sì, insomma, siamo gli economisti che teorizzavano la guerra come un modo per distruggere e poi ripartire. Insomma, sì, ragazzi, siamo passati veramente attraverso delle follie. Ok. Quindi in Italia questa solidarietà impresa-operaio si sta perdendo. Sì. Nella grande impresa molto di più che non nella piccola impresa. Il contatto diretto della piccola impresa effettivamente aiuta, però non, poi quando l'impresa, piccola impresa, è presa al collo perché la banca non fa più il mutuo, perché non, i tassi di interesse sono troppo alti, oppure non so, mille pastoie eccetera, e l'imprenditore alza le mani e dice: sì, domani restate a casa. E ovviamente abbiamo detto che la gente è scesa in piazza. Ci sono anche altre informazioni che ci dicono, insomma, qualcosa sulla situazione attuale. Per esempio, il rapporto Italiani nel mondo 2010, che è già stato trattato in questa serie, insomma, ai colori dell'anima in precedenza, dice che il numero degli italiani residenti all'estero è salito negli ultimi 4 anni, insomma, tra il 2006 e il 2010, da più di 3 milioni a più di 4 milioni, insomma, quasi un aumento del 25%. Un esodo. È un esodo. È un fenomeno che fa paura. Come vedi tu questo? Ci sono stati altri esodi. Ce ne fu uno subito dopo l'unità d'Italia, intorno al 1880, verso l'America in particolare. Poi all'inizio del secolo, 1900. Poi Mussolini creò le colonie, il posto al sole, per sbollire un po' di forza lavoro, chiamiamolo così. E poi nell'immediato dopoguerra, per la ricostruzione, il modello di ricostruzione è stato impostato sul triangolo industriale che aveva bisogno di manodopera. E allora invece di spostare il capitale dove c'era la manodopera, hanno forzato, e questo su base individuale, neanche su una base pianificata. Quando noi diciamo che in Belgio gli emigrati sono venuti con un contratto, con una convenzione e con un sacco di carbone per emigrati, ma bene o male c'era un quadro e si sapeva quanti dovevano andare. Per l'America aveva un numero fisso e gli italiani andavano a Napoli, e per passare le viste mediche eccetera eccetera partiva quel contingente, non di più, era una cosa programmata. L'emigrazione dal sud al nord è avvenuta in modo selvaggio. Pensate che fino al 1961 vigeva ancora la legge fascista che impediva di spostarsi dalle campagne alle città, dalla città dal sud al nord. È stato tolto nel 1961, quindi questa era anche illegale, questa migrazione dal sud al nord. Questo per dire che tutta questa operazione si è fatta a spese, sulle spalle del lavoratore. Sì. E allora io mi chiedo, su questo fenomeno così importante e significativo, quanto influisce la parola stabilità, o meglio mancanza di stabilità? Ma la mancanza di stabilità poi alla fine si ritorce contro la stessa economia. Allora, fino a prima della crisi economica, le banche italiane avevano imparato quello che in Europa si fa da sempre, cioè il credito al consumo sulla base della cessione del quinto, e poi molti mutui di casa. Okay? Poi con la crisi, come è successo anche in America, altrove eccetera, questi sono rimasti sospesi, cioè le banche hanno chiesto il rientro. Allora, questo significa che l'economia stessa, la domanda cade. Quindi l'impresa non può più neanche più programmare. È vero, le imprese buone delocalizzano, bene o male aprono, esportano. Sì. Esportano. Ma appunto, se tu destabilizzi il consumatore, perché poi alla fine l'operaio, il lavoratore è anche il consumatore, e beh, destabilizza alla fine anche l'economia. Quando cresce il numero, capito? Diventa certo. Ma quindi appunto possiamo dire che la destabilizzazione del modello che c'era una volta, del modello economico a livello di impresa, si traduce nella mancanza di stabilità nelle forme contrattuali del lavoratore. Assolutamente, anzi, l'impresa le chiede queste forme. L'impresa ha sempre caldeggiato. Quando dall'Europa è venuto il discorso della flessibilità, però un conto è la flessibilità per reggere ai mutamenti tecnologici dell'impresa è quindi un passaggio necessario. Un conto invece è quando uno cerca il contratto atipico per sostituire il lavoro già, cioè licenziano per prendere un ragazzo con un contratto atipico. Ecco, il 61% di questi contratti atipici è servito in Italia per sostituire il lavoro stabile. Sì. È una cosa, diciamo, un po' drammatica. È una conseguenza, insomma, una conseguenza che, insomma, dipende un po' da questa cosa qui, è il fatto che secondo una ricerca anche dell'Istat del 2010, che i giovani di oggi si sposano a età sempre più avanzata. Certo, certo. Perché credo che sia ormai ovviamente di media, dopo 9 anni di lavoro, cioè dopo l'entrata nel mercato del lavoro, ci si sposa, perché prima di quegli anni è impossibile progettare un futuro e costruire una famiglia. Che cosa vuol dire questo per la nostra società? Per esempio, la casa è un bisogno necessario, ma l'alloggio sociale popolare in Italia non c'è più. C'è un mare di seconde case o di terze case, ma sono carissime, perché sono per uno standard dell'usuoso molto elevato. Esatto. E quindi un ragazzo che fa? Una coppia o vive con i genitori oppure non si sposano. Sì. E i ragazzi non ci credono più anche. Però di nuovo, in qualche modo, qui abbiamo la sensazione che ci sia una cotizzazione tra l'Italia ed altri paesi in Europa, dove in qualche modo c'è la sensazione, forse soltanto percepita, che comunque il concetto di famiglia, sempre legato al concetto di lavoro, sia protetto proprio a livello di concezione di politiche economiche e sociali. Esattamente. Quello che noi avevamo costruito fino al 2000, quello che chiamavamo il modello sociale europeo, che poi era di ispirazione socialdemocratica tedesca, francese, e adesso con le nuove maggioranze di governi di destra che siedono al Consiglio europeo non riescono a smontarlo completamente, perché c'è una struttura piuttosto giuridica, eccetera, ma lo svuotano. Quindi quando noi parliamo di Europa, parliamo di due realtà, che quella fino al 2000 era una Europa solidale e quella dopo il 2000 è un'Europa individualista, nazionalista, fatta di governi nazionalisti. Sì. E come si, insomma, com'era il lavoro del, o com'è il lavoro del Fondo Sociale Europeo? Puoi darci un esempio di come si provava a armonizzare? Allora, l'occupazione è una politica nazionale. Gli stati membri non hanno voluto cedere alcun elemento di sovranità su questo tema, perché è legato anche ai regimi sociali. E i regimi sociali sono diversi da paese a paese, dipendono anche dalla volontà di volerli e dalla volontà di poterli finanziare. I sistemi fiscali sono molto diversi da paese a paese, perché il progetto di Mario Monti, di, non dico armonizzare, ma insomma di avvicinare i modelli fiscali, perché se gli stati non hanno una più o meno una certa disponibilità, non riescono neanche a fare le politiche, la politica economica, la politica scientifica, la scuola. E via dicendo. Quindi questa è un po' la radice, sono i modelli fiscali, e poi la disponibilità, la varia ricchezza differente, la diversa ricchezza dei singoli stati e il modo come ridistribuire questa ricchezza fa sì che l'Europa, anziché andare verso un modello più o meno simile, si divarica. Sì. Per cui oggi noi siamo felicissimi che resiste un modello renano tedesco di solidarietà. Esatto. Cosa che 20 anni fa noi eravamo critici nei confronti del modello renano. Sì. Oggi ci attacchiamo lì, però possiamo anche salire un pochino. In Scandinavia quando uno nasce è sicuro di morire bene, insomma, paga un mare di tasse. Però se tu chiedi a un danese, il danese dice: a me sta bene questo sistema. Perché c'è un servizio, un indice di felicità mette la Danimarca al primo posto, di fierezza anche di appartenenza. Ecco, quindi vuol dire, è possibile un altro modello dove ha una partecipazione più attiva produttiva, fiscale, corrisponde una redistribuzione, ma non solo redistribuzione passiva, redistribuzione attiva, cioè ricerca, cioè capitale umano, perché col capitale umano puoi sviluppare, puoi aumentare la produttività. Ed è proprio, direi, che sul capitale umano e sulla formazione torneremo dopo il break musicale. Comunque molto bella, sul 101.9 e state ascoltando I Colori dell'Anima, dove parliamo di lavoro e precarietà con Vittorio, che abbiamo in studio con noi, e ovviamente con la nostra Donatella, che conoscete già da molto. Allora, appunto, precarietà e lavoro, sicuramente negli ultimi tempi ci sono stati sviluppi molto importanti che sono stati proprio in qualche modo, si sono acutizzati in seguito alla crisi che c'è stata un po' dappertutto. Ma la crisi finanziaria del 2007-2008 La si sapeva, cioè era prevista. C'era scritto già da qualche parte. Sì. Era scritta, perché avevamo già avuto due casi di importanza che ha fatto tremare tutte le borse del mondo, la Enron e la Parmalat. Quindi erano due segnali molto chiari. Molto chiari, e gli economisti lo sapevano, ci dicevano, solo che non si sapeva da dove prendere la cosa. E comunque eravamo in un clima liberista, dove si diceva nessun problema, l'economia crollerà e poi risorgerà. Sì. E di nuovo. Ma come, appunto, come ci possiamo spiegare, Vittorio, che prima nel boom economico un certo gruppo di persone, un gruppo ristretto di persone approfittava alla grande del boom, e poi quando il sistema è crollato non erano loro a pagare le conseguenze, ma il lavoratore. È un'ingiustizia. Allora, sì, bisogna risalire un tantino indietro. C'è una scuola economica di Chicago, ma anche quella di Vienna, che facevano questo ragionamento. Per rilanciare l'economia, l'impresa, bisogna aumentare la quota parte di profitto dell'impresa stessa, che potrà reinvestire, creare nuovo lavoro, nuova ricchezza e via di seguito. Allora, ridurre le tasse significa ridurre le funzioni dello Stato. Tu riduci le tasse, il bilancio statale sarà inferiore e lo Stato non può più ecco, allora lì nasce subito quali politiche. Ovviamente sono le politiche sociali, sono le più semplici, perché sono quelle dove è della classe più debole nella scala sociale, sono quelli che non riescono, i pensionati, i vecchi, i malati, eccetera, i bambini non riescono a protestare. Ok, questa era la base. Il secondo punto era privatizzare le funzioni dello Stato. Lo Stato rinuncia alle scuole, e beh, il privato può fare le scuole, rinuncia alle carceri, la privatizziamo, la sanità la privatizziamo, quindi allarghiamo il business. Sì. Ok, capito la logica? Privatizzare, e a questo punto sì, però tutti questi balzelli eccetera, quando hai indebolito lo Stato non è più neanche più in grado di fare dei controlli. Allora il privato dice: perché i controlli? Io mi autocontrollo, tu mi dici come deve essere, tu mi indichi lo standard e io lo rispetto. Ma i controlli li farai dopo, non prima, per esempio. Allora, questo è venuto anche nel settore bancario, nel settore della finanza. Sì. Quindi col Basilea 2, per esempio, si è detto che le banche sono auto. Ricordate l'autocertificazione? Un giorno sono entrato in un'azienda, io per acquistare una partita di olio d'oliva per il mio consumo personale, ho visto un grande cartello che diceva: questa impresa si regola sulla legge generale dell'autoregolamentazione. Oddio, dico io, ma l'olio che compro che faccio? Come sarà? Cioè, questo... Guardate, questo problema del controllo è stata una battaglia, è stata giocata anche qui interno alle istituzioni comunitarie, che prima aveva un sistema di controllo ex ante, ex post, è stato smantellato. L'ex ante. Okay, quindi niente controlli. Allora, anche le banche al Basilea 2 davano, praticamente era una carta libera. Di conseguenza la crisi è avvenuta perché c'era un credito facile, c'era perfino il credito della sera alla mattina, c'erano degli imprenditori che ipotecavano che l'indomani mattina una moneta sarebbe stata un pochino più alta, la sera diceva una banca mettimi in conto una somma spaventosa, se l'indomani mattina la previsione si realizzava lui incassava, se per caso non fosse realizzata dice no senti quella lì non la firmiamo. Cioè c'è stato una tale avventurismo sul piano finanziario che alla fine non poteva. Qual è il punto critico? È che si vendevano i debiti o si vendevano le carte. E che io qui sopra scrivo buono cassa oppure azione oppure che cosa e te la vendo. Allora tu dici io non te la compro. Però se tu sei hai bisogno di un prestito, io ti dico vabbè il prestito te lo do. Però mi devi comprare anche una partita di questi bond, esatto, sì. Eccetera. E questo è per esempio è successo con molti comuni, molte regioni in Italia, sì. Che si sono indebitati con questi titoli falsi in pratica. Però ovviamente credo che siamo d'accordo che questo è un mondo che è lontanissimo dal mondo reale, il lavoro è inteso come creatività. No, c'è un legame con l'economia reale, perché quando uno realizza... Ho dei casi concreti dei ragazzi, voglio dire 20 anni, universitari, che dicevano, zio, io ho dei bond in Argentina, tutte le mattine guardo come va, eccetera, capito? Voglio dire, era diventato talmente facile guadagnare che un Agnelli ha smesso di investire sulla macchina, sull'auto, con nuovi progetti, eccetera, eccetera, ha creato un IFIL e giocava sulla finanza pubblica mondiale. Sì. Ora, e questo l'hanno fatto tutti, Parmalat, sì. L'hanno fatto tutti gli industriali, hanno lasciato l'industria, l'economia reale per buttarsi sull'economia finanziaria. E questo, la crisi finanziaria si è ripercorsa sull'economia reale. Sì, esatto. Quindi, e comunque questo mondo della speculazione è una creatività, diciamo, è sotto un'altra forma, cioè non più come creazione. Creatività nella creazione di qualcosa, ma più inventività. Fino a quel punto il denaro era un mezzo per fare il business. Da quel momento in avanti il denaro è diventato, o il titolo di denaro è diventato un valore in sé. Esatto. Che però era falso, ma girava. Ora, questo è un po' il background della crisi. Sì. E magari visto che ci stiamo avvicinando alla... scusa un secondo, sì. Calando l'economia reale calava anche il drenaggio fiscale, quindi lo Stato comunque si è impoverito, capito? Perché la finanza internazionale sfugge al fisco, sì. Quindi in questo lasso di tempo ci sono degli arricchimenti spaventosi e un impoverimento generale, sì. E vedo appunto che qui accanto hai portato con te alcuni testi molto interessanti. Uno di questi è appunto Marco Revelli. E ci puoi leggere qualcosa? C'è appunto un pensiero, una riflessione particolare che credi sia utile indirizzare al nostro pubblico? Sì. Revelli analizza il precariato e fa diversi tipi di precariato. Mm-hmm. C'è chi aveva un lavoro e l'ha perso, chi non è per niente entrato nel lavoro e non riesce a entrarci, e poi ci sono questi famosi contratti atipici, per un mese, tre mesi, con o senza garanzie sociali, con o senza il pensionamento, le cose, capito? Revelli, per esempio, sulla crisi finanziaria di cui dicevamo, estrapola direttamente l'impoverimento, cioè è ricaduto sui lavoratori, sono quelli che hanno perso il lavoro. Ci sono anche dei capitalisti che hanno perso tutto, no? Però il loro tutto non è il 1000 euro sulla quale vive la famiglia, insomma. Esatto. Allora una lettura raccomandata è Marco Revelli Poveri noi, ecco. E l'altro invece è il mondo Berselli, l'economia giusta, una via cristiana per uscire dalla grande crisi. Ecco, magari ne parliamo fra un attimo quando... Esatto. Io direi che possiamo ascoltare un bel brano un bel po' di musica e poi tornare con uno sguardo rivolto magari al futuro e alle soluzioni ai problemi che diciamo abbiamo individuato in questa puntata e insomma di concludere questa puntata su una nota positiva. Stiamo ascoltando I Colori dell'Anima e ci hanno accompagnati i Subsonica. Donatella, eccoci qui, siamo con Vittorio, parliamo appunto di lavoro e precarietà, e parlando di questi due concetti così importanti io mi chiedo qual è il ruolo dell'educazione, della formazione nella lotta alla disoccupazione e alla precarietà. Ecco, finora abbiamo fatto così una specie di analisi politica, non generale, però a un ragazzo che si affaccia alla vita, questo discorso può essere interessante per avere una visione, per avere un orizzonte, ma non basta per trovare un lavoro. Ecco, allora, nella politica dell'Unione Europea l'asse principale è stato quello del capitale umano. Bisogna assolutamente innalzare il capitale umano. Se uno vuole avere più chance di non essere disoccupato o di non cadere nella precarietà, deve assolutamente investire. E anche quando hai tempi morti per via di una crisi, di una sospensione del lavoro, eccetera, quello è il momento ideale per reinvestire. Perché poi quando invece lavora, lavorare e studiare e formazione è complicato, certo, se uno ha anche impegni di famiglia, eccetera. Quindi in casi di difficoltà l'unica cosa è ributtarsi in avanti con esperienze professionali, con stage, con formazione professionale, che non è l'aggiustamento o l'informazione su un prodotto, è qualcosa di più. Insomma, bisogna sapere che c'erano degli scienziati economici che dicevano ogni 10 anni il parco tecnologico si rinnova. E quindi ogni 10 anni la nostra preparazione diventa desueta, sì. E quindi bisogna correre in continuazione. Oggi non basta più dire ho un titolo di studio oppure 10 anni fa ho fatto un corso di formazione. No, la formazione deve essere continua. Esatto, diventa necessaria in continuazione. E ovviamente è triste poi constatare che ovviamente nell'educazione e la formazione viene spesso una delle prime cose su cui viene risparmiato. Allora vi posso dire un po' qual è stata la mia scommessa professionale nei fondi strutturali. Si è sempre data quando si aborda il problema dello sviluppo di una regione, per esempio, si dice sempre infrastrutture, investimenti produttivi, e il lavoro veniva sempre considerato come un accessorio. Ok, allora questo è stato vero fino al 95, nel 1995, quando cioè è scoppiata quella corsa all'internet, alla tecnologia, le tecnologie di comunicazione e informazione. A quel punto si è visto che il capitale umano diventava il fattore centrale. Sì. Allora, noi abbiamo fatto fare uno studio a degli economisti di grandissima fama, dei macroeconomisti, di quelli che credono nella moneta, nell'investimento fisso, eccetera, eccetera. E abbiamo chiesto, sentite, fateci un modello, prendiamo dei dati di 40 anni e vediamo qual è stato il ruolo del capitale umano. Allora, questi all'inizio erano molto scettici, poi pian piano hanno lavorato sui dati, li hanno purificati, hanno fatto le serie, e alla fine sono venuti a dirci, ok, e su questo primo dato che vi do c'è un accordo unanime: un anno in più di formazione, quindi di accumulo di capitale umano, produce e è collegato con un aumento del 10% del salario. Questo è il livello delle persone. Questo ovviamente su grandi numeri, d'accordo? Ok. Ma noi abbiamo chiesto ai nostri economisti, sì, ma ditecelo anche in termini macroeconomici, sì, in termini di PIL, di produttività. Qual è la ricaduta in un'economia di uno Stato se c'è un parco molto alto di laureati rispetto a un altro paese? E qual era la risposta? Bravo. Allora, la risposta era 6,2 di aumento secco, il modello è sempre lo stesso, un anno in più di formazione. Se noi aumentiamo il parco del capitale umano di una, la dotazione del capitale umano di un paese 6,2 più 3,1 tramite veicolato dalla nuova tecnologia sul lungo termine. Capito? Quindi un salto di 6,2 e sul lungo termine 3,1. Sì. Che poi se sommi le due vanno a finire al 10% circa, che corrisponde all'altra parte. Però a me appunto sorge una domanda su questo, perché sicuramente appunto è in dubbio, e questi studi lo confermano, il ritorno che c'è a livello di società dell'investimento sull'educazione. Però dall'altro lato, in qualche modo, ho la sensazione che l'investimento nell'educazione, sul capitale umano, che non è associato ad un investimento produttivo a livello di paese, è totalmente vuoto, perché il mercato non è in grado poi di attrarre e di prendere questa forza lavoro intellettuale, diciamo. Assolutamente vero. Quindi l'individuo, il giovane, accumula un capitale umano e poi non trova il contesto. Quello che succede in Italia, cosa succede in Italia? Per 10 anni sono stati buoni e dopo sono andati all'estero. Sì. Adesso ci sono 40-50 mila cervelli che vanno fuori. Che significa che il mercato del lavoro e la formazione sono divergenti. E questo perché? Perché in Italia, dal dopoguerra, dalla ricostruzione in avanti, l'impresa ha investito poco sulla tecnologia. Notate che il 94% o di più delle imprese italiane sono piccole, piccolissime. Sì. E quindi insomma, le tecnologie non è che sono molto, molto avanzate. Però, ripeto, hanno giocato sulla bassa qualifica. Capito? Le imprese hanno giocato sulla bassa qualifica. Sì. E quindi poi da noi non funziona questo modello. Esatto. Però,